Gli speciali di Radio 24. Uno speciale, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, naturalmente su quello che sta succedendo nelle ultime ore in Sardegna, a partire da ieri sera con voi Roberta Giordano, mezz'ora appunto per fare un po' il quadro, il punto sull'alluvione che ha colpito pesantemente l'isola della Sardegna. È stata una strage nelle ultime 24 ore, 18 sono i morti e ci sono anche almeno due dispersi e tra le vittime 4 bambini. La Gallura in ginocchio per il passaggio di un ciclone, a volte. Anzi, diciamo che siamo poco abituati noi in Italia a pensare che dei cicloni, dei fenomeni meteorologici di questo tipo possano passare dalle nostre parti. Il ciclone Cleopatra, che ha portato una bomba d'acqua praticamente su Olbia, ci sono stati blackout, frane, centinaia di sfollati, e la parte più colpita dell'isola è praticamente la parte nord-nord-est, la parte appunto centrale settentrionale della Sardegna. Il Consiglio dei Ministri ha convocato d'urgenza e ha dichiarato lo stato di emergenza. Oggi è il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, che è arrivato lì, ha dato subito il quadro del fenomeno eccezionale. Ha detto che in 24 ore è piovuta sulla Sardegna la pioggia che di solito cade in 6 mesi. Quindi immaginate che cosa può essere capitato in Sardegna. C'è con me qui in studio Paolo Panceri, che ci aggiornerà man mano sulle notizie che arrivano. C'è qualcosa che è arrivato poco fa, mi pare, Paolo. Sì, c'è un'ANSA battuta pochi minuti fa, riguarda una comunicazione di Save the Children, secondo la quale sono circa 12.000 i minori che vivono nei comuni di Olbia e Arzachena, quelli che, come dicevi tu prima, sono stati quelli più colpiti dalla violenta alluvione. Save the Children sottolinea che in questo momento è necessario prendersi cura in particolare di questi bambini, che in stragrande maggioranza vivono tutte le preoccupazioni e le incertezze dell'alluvione e soprattutto risiedono nelle zone più colpite e molti di essi anche in zone facilmente raggiungibili da parte dei soccorritori. E abbiamo detto infatti che purtroppo tra le 18 vittime contate sinora ci sono 4 bambini, ma ci colleghiamo direttamente con la Gallura, la zona della Gallura nella Sardegna appunto settentrionale, con Antonella Brianda, giornalista di Olbia Notizie. Ciao Antonella. Salve, buonasera. Antonella, il ministro della difesa Mauro ha detto, che era lì presente anche lui oggi, ha detto moltissimo è stato già fatto, già fin da questa notte sono stati messi a disposizione alloggi per tutti e adesso bisogna fare un censimento dei bisogni. Tu che sei lì proprio del territorio, sul territorio, che cosa sono le cose maggiormente necessarie in questo momento e qual è la situazione, anche una comunità sconvolta insomma in poche ore? Certo, assolutamente. Beh, adesso la cosa che tutti stanno chiedendo sono delle case, dei posti in cui passare la notte, perché la pioggia purtroppo da un'ora ha ripreso a scendere. Il sole ci aveva accompagnato per tutta la giornata, ma adesso dalle 5 di questo pomeriggio la pioggia fitta sta continuando a scendere su Olbia e sulla Gallura, quindi servono coperte, materassi puliti e asciutti, serve cibo caldo, serve sicuramente un'organizzazione, non dico più forte, ma comunque meglio strutturata, perché tanto sta facendo la solidarietà degli olbiesi, comunque dei galluresi, però bisogna organizzarsi meglio. Il sindaco, come tu hai detto, ha chiesto alle strutture alberghiere di mettere a disposizione le stanze e molte strutture già dalla notte appena passata l'hanno fatto, tante potrebbero farlo e quindi veramente si darebbe una mano più grande a questa gente, che io ho visto con i miei occhi avere la casa invasa dal fango e l'acqua che arrivava alle ginocchia. Ci sono interi quartieri che sono allagati e zone nelle quali la luce salta ed è anche pericoloso avventurarsi, ecco. Antonella, allora sentiamo intanto dalla nostra Alessandra Schepisi. Ciao Alessandra. Ciao Alessandra. Ciao Roberta. Per la parte istituzionale invece, quindi abbiamo detto che il Consiglio dei Ministri è stato convocato d'urgenza, ha dichiarato lo stato d'emergenza, c'era lì Gabrielli, capo della Protezione Civile, ha parlato il ministro Orlando, naturalmente anche il presidente del Consiglio Letta. Che misure sono state prese? Si è parlato subito di uno stanziamento di diversi milioni, no? Sì, ecco, è stato deciso lo stanziamento immediato di 20 milioni di euro ed è stato decretato lo stato di emergenza nella regione. Questo lo ha deciso un Consiglio dei Ministri Lampo che è stato convocato in via straordinaria questa mattina. Però diciamo subito, notizia dell'ultima ora, che Letta, il Premier Letta è arrivato ad Olbia poco prima delle 18. In questo momento si trova presso il centro di coordinamento soccorsi allestito nel Consiglio Comunale. Il Premier ha dunque deciso di andare proprio oggi a visitare le zone colpite, poi rientrerà questa sera a Roma per l'assemblea del PD. Letta, che ha detto, anche questa mattina, ha detto la priorità è il salvataggio di vite, l'assistenza alle popolazioni sfollate, ha parlato di tragedia nazionale, di dramma dalle proporzioni incredibili, ha assicurato il massimo impegno delle istituzioni, ha spiegato che proprio la dichiarazione dello stato di emergenza è un atto giuridico fondamentale per consentire subito la possibilità di procedure accelerate. Allora, se vuoi, Roberta, possiamo anche ascoltare una voce di Letta. Sentiamolo. Abbiamo deciso lo stanziamento immediato per la immediata emergenza di 20 milioni di euro. Questa scelta ovviamente riguarda l'immediato intervento, non riguarda poi tutto ciò che avrà a che vedere con l'eventuale lavoro di ricostruzione, per il quale ovviamente c'è bisogno di avere poi più in là le stime necessarie. Sono stato in contatto stanotte, stamattina, con oltre che con il prefetto Gabrielli, anche con il presidente della regione e con il sindaco di Olbia, e naturalmente stiamo dall'inizio seguendo questa drammatica vicenda, che ha delle dinamiche fattuali assolutamente straordinarie in termini di quantitativo di acqua che è caduta su quelle zone. E ovviamente l'impegno è l'impegno massimo, perché fin dall'inizio abbiamo capito che questa vicenda andava gestita con un impegno nazionale come quello, per l'appunto, che a partire dalla presenza del prefetto Gabrielli stiamo cercando di garantire. Citava Alessandra Schipisi proprio appunto il prefetto Gabrielli, e prima Antonella Brianda, che in collegamento con noi, giornalista di Olbia Notizie, diceva che se si potesse fare di più, chiaramente quando ci sono le emergenze non è mai abbastanza, ma il prefetto, il capo della protezione civile Gabrielli è entrato un po' ha risposto a delle polemiche che ci sono state, no, oggi. Sì, ci sono state delle polemiche, qualcuno ha accusato la protezione civile di aver diramato troppo tardi, in ritardo, l'allerta, e il capo della protezione civile questa mattina ha tenuto una conferenza stampa, si è detto indignato, ha detto sono accuse false, il sistema di allerta ha funzionato. Allora sentiamo anche qui la voce di Gabrielli. Su questo non intendo fare sconti a nessuno, men che meno a biscazzieri del web, e su questo poi ci misureremo nelle sedi competenti, perché noi operiamo in base a disposizioni, norme che fino a prova contraria regolano la vita di questo paese, piaccia o non piaccia. L'evento di ieri è stato un evento eccezionale. L'ha sottolineato con molta efficacia, insomma, Gabrielli. Alessandra Schepesi, ci risentiamo tra pochissimo, c'è la viabilità, ma prima Paolo Panceri ha degli altri aggiornamenti. Sì, il primo è un allarme meteo da parte della Protezione Civile che riguarda la Sardegna, e le prossime 24-30 ore si prevede, qua dice l'agenzia, il livello di elevata criticità per rischio idrogeologico nel Campidano, Gallura, Iglesiente, nei bacini Flumendosa, Flumineddu, Montevecchio, Pischirappio. Invece c'è un'altra notizia che è uscita poco fa, secondo la quale sono a rischio in Italia, a rischio idrogeologico, 6.631 comuni che si trovano per l'appunto in area ad elevato rischio, pari circa al 10% della superficie italiana. Gli speciali di Radio 24. Continuiamo quindi con questo speciale su questo evento eccezionale, come diceva il capo della Protezione Civile Gabrielli, che ha colpito pesantemente la Sardegna, un'alluvione che è cominciata ieri, che ha buttato soprattutto la parte centro-settentrionale della Sardegna in ginocchio. 18 sono i morti, almeno 2 dispersi e 3 morti, purtroppo anche 4 bambini. Abbiamo sentito Antonella Brianda, giornalista di Olbia Notizie, che poi ci aggiornerà ancora. Alessandra Schepisi, Abbiamo sentito quindi Letta che ha parlato di uno stanziamento immediato di 20 milioni e poi di altre cose che man mano che si faranno i conti con i danni arriveranno. Gabrielli che ha risposto a questa polemica sull'allerta, sugli interventi, sui ritardi o meno, ha parlato anche il ministro dell'Ambiente, no? Il ministro dell'Ambiente ha tenuto una informativa alla Camera questo pomeriggio. Innanzitutto ha difeso Gabrielli dalle accuse di aver diramato ritardo d'allerta, dalle polemiche di cui dicevi anche tu. E il Dipartimento, ha detto Orlando, avvisò domenica scorsa con un'allerta meteo della possibilità di forti precipitazioni sulla Sardegna, una criticità che era stata indicata al massimo livello e che dunque poteva comportare la perdita di vite umane. Orlando, tra l'altro, ha ribadito l'eccezionalità delle piogge oggi cadute sulla regione, particolarmente intense e consistenti, valori plurisecolari, ha detto oltre 450 mm di pioggia in poche ore, quando nella serie storica le precipitazioni medie annue sono di 1000 mm, e questo, ha detto, ha messo in crisi tutto il sistema idrografico. Poi ha fatto anche il punto sugli sfollati, che sono 2700, su questo possiamo sentire la sua voce. Le province maggiormente interessate dalle forti precipitazioni sono Olbia e Nuoro, con allagamenti diffusi e interruzioni di strade. In particolare le criticità principali si registrano nel comune di Torpè, dove sono state evacuate 500 persone, ora ospitate in strutture messe a disposizione dal comune, e nel centro di Olbia, dove centinaia di sfollati hanno trovato ospitalità presso le strutture alberghiere della zona. Sono circa 2700 le persone fuori casa e ospitate in strutture comunali, alberghi o da parenti. Al momento sono attive 37 organizzazioni di volontariato locale che hanno dato supporto e assistenza alle persone sfollate. E abbiamo sentito quindi anche il ministro Orlando. Alessandra Schipisi, hai altro da raccontarci? Sì, l'ultima cosa, diciamo che da tutte le istituzioni ovviamente sono arrivate manifestazioni di cordoglio per le vittime. Napolitano ha subito diffuso una nota nella quale ha espresso solidarietà alle comunità colpite e commossa partecipazione, così hanno fatto anche i presidenti di Camera e Senato. Grazie Alessandra Schepisi. Intanto stiamo cercando di raggiungere il presidente della Regione Sardegna, Ugo Cappellacci, che però al momento è in riunione con Letta, che si diceva è arrivato poco fa in Sardegna. Saluto intanto Luca Mercalli. Buonasera professore. Buonasera a tutti voi. Presidente della Società Meteorologica Italiana. Quindi diceva per l'appunto Gabrielli che è stato un evento davvero eccezionale, in 24 ore la pioggia di 6 mesi. È il clima che continua a cambiare, Mercalli. Io intanto sull'eccezionalità andrei cauto, perché abbiamo degli altri eventi di pari portata dietro l'angolo, perché per esempio l'evento del 6 dicembre del 2004, che non è poi tanto lontano nel tempo, sull'Ogliastra fece cadere una quantità di pioggia, dai primi dati di cui disponiamo, addirittura superiore, attorno ai 510 mm, solo che era concentrato su una zona con bassa popolazione e quindi i danni e fortunatamente anche le vittime furono inferiori. Per cui diciamo che siamo in una tipologia di eventi molto intensi, ma che la Sardegna ha già visto nella sua storia. In questo caso l'eccezionalità si deve alla grande area investita tutta insieme a zone densamente popolate come l'area urbana attorno a Olbia. Quindi solo perché ha colpito quella zona, in realtà sono fenomeni che ci sono già stati. Ma quindi che cosa significa, professor Mercalli, che si continua in Italia a latitare sulla prevenzione da questo punto di vista, che non c'è stata un'allerta? Sa che ci sono state anche polemiche e Gabrielli ha risposto con molta fermezza. Ma io direi che da un punto di vista dell'allerta le previsioni meteorologiche avevano individuato la situazione di vigilanza e a rischio, quindi secondo me si è fatto quello che si doveva fare. Sulla risposta poi delle effettive precauzioni è sempre difficile pronunciarsi, perché dipende da quelle che sono state le indicazioni fornite sul posto e anche in questo caso i fenomeni sono difficili da localizzare, quindi si può dare solo un'allerta generale, dire domani sulla Sardegna orientale e settentrionale forti nubi fragili, ma uno non riesce a precisare e dire esattamente in quale comune e a quale ora. Quindi queste sono poi le problematiche che sempre ci sono nei casi di precipitazioni di forte intensità e di alluvioni di questo genere. La sicurezza del resto assoluta non esiste, purtroppo sempre bisogna mettere in conto che in situazioni di questo genere vittime e danni ci saranno sempre, si può fare di tutto per ridurle, questo senz'altro. Adesso leggevo che l'allerta si sposta in Calabria, ma per quanto riguarda ancora la Sardegna, le previsioni di cosa parlano? Allora, domani e nei prossimi giorni avremo delle schiarite, ci saranno ancora delle piogge, ma non più intense da destare preoccupazione. Si limiteranno sicuramente a intralciare i soccorsi, questo sì. Quindi l'allarme potrebbe rientrare nelle prossime ore, si spera. Da un punto di vista meteorologico sicuramente il peggio è passato. E Paolo Pancieri, qui in studio con me, professor Mercalli, prima citava... Sì, sono dati che arrivano dal Corpo Forestale dello Stato, secondo il quale sono 6.631 i comuni, cioè l'82% del totale, che si trovano in aree ad elevato rischio idrogeologico pari al 10% della superficie italiana, mentre la popolazione che è potenzialmente esposta viene stimata sempre dal Corpo Forestale dello Stato in 5,8 milioni di persone, quindi sono dati abbastanza rilevanti. Sono tanta roba, no? Come si dice, professor Mercalli? Questo è l'annoso problema italiano. Poi ci si mette anche il clima, adesso se vedremo se in futuro questi eventi purtroppo sono destinati ad aumentare in frequenza e intensità, ma per il momento abbiamo già abbastanza da fare con quello che abbiamo storicamente sul nostro territorio, che è un territorio fragile, sovrappopolato, sovrainfrastrutturato e che purtroppo periodicamente fa le spese di una meteorologia complessa che sul Mediterraneo, dalle Alpi alla Sicilia, ci porta un po' in tutte le stagioni questo tipo di eventi. Professor Mercalli, quindi la conclusione è, per adesso cerchiamo di tenere a bada quello che succede, ma potrebbe essere che il clima sta cambiando o non sta cambiando? Il clima altro che se sta cambiando, ma lo vediamo soprattutto sulla temperatura. Lì non abbiamo alcun dubbio. La temperatura sta salendo e nell'ultimo secolo, un po' in tutto il mondo, incluso l'Italia, è aumentata di un grado, addirittura in Italia e sulle Alpi un grado e mezzo. Questo è il vero segnale climatico. Gli eventi estremi sono difficili da collocare in questo quadro perché sono poi anche mediati dalla interazione con il territorio. Quindi questo evento ha fatto molto scalpore per il numero di vittime. Se fosse capitato soltanto in una zona meno abitata, l'avremmo probabilmente relegato a una cronaca meno drammatica. Grazie professor Luca Mercalli, la ringrazio. Buona serata a tutti. Grazie, buona serata. Antonella Brianda, quindi di lì dalla Sardegna, vuoi dare un ultimo aggiornamento? Sì, niente, io sto assistendo da fuori in realtà perché non fanno entrare la stampa nella riunione con il Premier Letta. Sì. Che penso in questi minuti abbia finito di parlare. Qua la situazione è critica, noi continuiamo a diffondere le informazioni di stare tranquilli, però bisogna uscire dalle case appena si vede l'acqua che entra e bisogna soprattutto avvisare subito la protezione civile della zona in cui ci si trova, ecco, perché questo è un altro problema, non si riesce a capire il numero esatto degli sfollati perché la gente non lo sta comunicando. Molto alto. Antonella Brianda, intanto ti ringrazio. Grazie dalla Sardegna. Paolo Pancieri. Sì, a proposito di quanto diceva la riunione del Premier Letta, dice che il Presidente del Consiglio è riunito con i responsabili del centro coordinamento che è presieduto dal responsabile della protezione civile Franco Gabrielli, stanno facendo il punto della situazione per verificare come è possibile intervenire. Grazie Paolo Pancieri, direi che per il momento possiamo chiudere qui questo speciale sulla Sardegna, naturalmente vi do come sempre l'appuntamento alle 21 come tutte le sere a Effetto Notte, a più tardi.